Eccoci qui a un nuovo episodio di Mincio Segone Ask the Maker, episodio numero 2. Siamo sempre noi, c'è Vario Punk, Pietro Turri, sono qui, miglior game maker italiano. Poi abbiamo Scar the Pumpkin, Claudio Turri. Oggi sono un po' maldigolato, penso di avere il virus G, ma adesso vedremo come andranno le cose. Potrebbe essere il virus T. E poi abbiamo Rixka 4.0. Beh, io sono il raffreddore, quindi sono, ti faccio compagnia. E lui invece ha la plaga, quella di Resident Evil 4. E il nostro ospite di oggi è Marius dello staff di Frank Expo. Grazie, salve a tutti. E soprattutto sembra che sia l'unico in salute qui. No, io sto benissimo. Perfetto, siamo a due. Sì, ma di fianco è un infettato. Vabbè. Allora, Frank Expo è un portale italiano, anzi, ormai europeo, di diffusione degli indie games e di giochi freeware. Sì, Mario. esattamente. Stiamo davvero andando bene, diciamo. Il sito è piuttosto giovane, anche se non sembra, in quanto ha un anno e mezzo all'incirca. E io mi occupo principalmente delle mail e della pubblicità del sito e del, diciamo, un coordinamento un po' ogni tanto insieme agli altri ragazzi dello staff. Marius, quindi dai mail mi rispondi sempre te, vero? Sì, alle mail sono quasi sempre io. La cosa che mi spiazza è che mi dai del lei, io non mi sento mai dare Ah. del E a volte cerchiamo di tenere, anche perché l'età dei sviluppatori, anche se non sembra, noi pensiamo siano tutti adolescenti o tutti quanti come noi tra i 20 e i 30 anni, davvero a volte anche sono persone molto più adulte, cose così, quindi cerchiamo sempre di essere quanto più accoglienti e più professionali soprattutto possibili. Ecco, io invece faccio il contrario. Di solito quando conosco un game maker inizio a cazzeggiare, diciamolo, e poi lui mi dice: "Ah, ma io il giorno lavoro, la sera c'è mia moglie". Sono tutti over 30 quelli che conosco, io ci rimango un po' così. Abbiamo avuto anche persone con bambini. Non possiamo perché mio figlio oggi. Ok, Cioè, allora, sono io che sono troppo immaturo, probabilmente. il pubblico di sviluppatori amatoriali, anche se non sembra, è di qualunque età. Sì. Quindi tra 40 anni tu potrai ancora stare lì a fare il tuo, non so, 24esimo gioco. Sì, tra 40 anni io sono già al 60° e mi sto lamentando più che mai. No, sai, non era il tuo ultimo che è Sì, e uscito. starò ancora dicendo questo è il mio ultimo gioco perché voi non mi capite. Esatto. No, Vabbè. comunque la Frank Expo, devo dire, io non sono entrato a farne parte sin dall'origine. Sono arrivato qualche mese dopo. Ma ha iniziato solamente con Frank e Inter Simone, in quanto entrambi erano sviluppatori di videogiochi. Ora mi sa. Frank ha fatto giochi? Sì, ha fatto un videogioco stile RPG, un altro stile Mugen. Comunque, se non sbaglio, qualcuno ne ha fatto. Sebbene non li ha messi sul sito. Non so perché, non Ecco so perché perché. non lo sapevo. Se cerchi su YouTube, mi pare si chiama Tales of Caledon, qualcosa del genere, troverai il gioco di Frank fatto con un team che era davvero numeroso. Trovato Sabaot Team. Ale, abbiamo sputtanato Frank. Andiamo a vedere. E ancora non l'ha messo sul sito. Dice che è completo, poi lui ha tutta una filosofia particolare, quindi non lo comprendo sempre del tutto. Però anche lui sviluppa videogiochi, anche Inter Simone, diciamo, cofondatore del sito, è uno sviluppatore di videogiochi e attualmente all'interno dello staff la maggior parte sono sviluppatori di videogiochi. Io sono l'unico che non ha ancora sviluppato niente, a quanto Mi stai bruciando tutte le domande, stai già rispondendo a tutte da solo. Ma Tales of Caledon, da come l'avevi pronunciato, dicevo, questo l'ha fatto con RPG Maker, ho visto il video, questo sembra Ultima Online, sembra. Si è fatto piuttosto bene. Poi hai visto pure la Frank Expo. Frank mira davvero molto in alto ogni volta che fa una cosa. Qui c'è scritto che è fatto con RPG Maker XP, ma è un RPG isometrico fine anni 90, se, tipo Diablo, dai, a livello... Cacchio, Sì, che bravo. a me sembra molto stile Diablo. Molto bravo. Andiamo a vedere il sito, tanto che siamo qui. Ok, comunque, quindi tu, nonostante sei entrato un paio di mesi dopo, comunque le origini del sito a livello ideologico, di cosa si voleva ottenere, com'è iniziata, le sai? Sì, alla perfezione. Nasce appunto dal fatto che molti sviluppatori non riuscivano a pubblicizzare il loro gioco tanto quanto volevano. Anche Frank e Intersimone, alla fine il pubblico rimaneva sempre limitato a quello che casomai era il forum di appartenenza oppure il forum del programma con il quale sviluppavano videogiochi, senza mai estendersi più di tanto e senza neanche mai avere l'opportunità di confrontarsi con altre persone a livello internazionale, anche perché ci sono sviluppatori logicamente in tutta Europa e alcuni sono davvero molto molto bravi ed è importante continuarsi a confrontare anche con loro e vedere le creazioni che sono in grado di far uscire. E quindi appunto hanno voluto creare questo sito che quanto fosse più, diciamo, semplice e dinamico possibile e cercare appunto di dare il giusto spazio a ogni gioco e cercare di dare importanza a ogni singolo gioco e ottenere il maggior numero di download possibili. E la sorpresa, diciamo, è che era nato con buone aspettative, ma dopo neanche un anno già c'erano oltre 250 giochi sul sito, che era una cosa che nessuno si sarebbe aspettato, perché appunto in Italia sembra che nel momento in cui hai finito il giro del tuo sito, del forum che conosci e di altri 4-5 forum, uno non sempre vede tutti questi indie games, sembrano sempre pochi, invece devo dire che sono stati più numerosi di quello che ci aspettavamo. Infatti, essendo un game maker, posso dire che Frank Expo è proprio piovuto dal cielo, è un miracolo piovuto dal cielo, perché in Italia diffondere il proprio gioco è terrificante. Perché, come diceva Mario, solo metti nel sito comunque che frequenti normalmente, nel sito del Tools, e poi se tu provi a metterlo in altri siti di videogiochi generici, o vieni bannato. Questa esperienza personale della settimana scorsa, addirittura. O vieni bannato a vita. O vieni bannato a vita, Hardware Upgrade Forum, o... oppure passi inosservato, oppure qualcuno ti prende per il culo o ti insulta. Quindi è questo che ottieni. Sì. Infatti io non so se è stato fatto tanto apposta quanto... ma all'inizio abbiamo voluto un poco evitare di mettere anche il programma con il quale veniva sviluppato il gioco, appunto per non far giudicare il gioco per come è stato fatto, ma il gioco per com'è, diciamo, cioè per quello che ha voluto, che vuole trasmettere. Non tanto importante se casomai le risorse sono tutte quante libere o se è stato fatto con un programma o è stato scritto codice da zero. Sì, si vuole puntare a far votare il prodotto finale. Questa è una cosa che a me davvero piace. Anche a me, perché quando sei nel mondo dei game maker ci sono varie caste, diciamo. Ci sono i fan gamers, i free gamers e gli indie gamers, chiamiamoli. In realtà saremo tutti indie gamers, però gli indie gamers se la tirano talmente tanto, perché loro sanno programmare da zero, che ti mettono sotto di loro. Sì, è vero, capito. Poi io mi metto sopra tutti perché so di aver ottenuto risultati migliori di loro. Ma il successo è la tua miglior vendetta. Io sono una casta a parte, sono Dio praticamente. No, è davvero andato bene. All'inizio, nonostante all'inizio eravamo, diciamo, solo italiani, poi diciamo che come concorrenza in Italia, un sito come il nostro, non c'ero, quei piccoli che c'erano erano davvero curati rozzamente, fatti e lasciati lì, abbandonati, mentre noi abbiamo sempre continuato a modificare, aggiornare, introdurre cose nuove, introdurre nuovi benefici, e continuiamo a farlo anche ora, perché ad esempio cerchiamo anche di distanziarci da quelli che sono alcuni siti che diffondono videogiochi perché collegati al tool, come ad esempio YoYo Games, che diffonde videogiochi, o tanti altri, perché alla fine se li vedi, vengono creati questi siti, lì, messi lì, poi quasi abbandonati, lasciati da parte, mai una modifica, mai un'innovazione, mai un... Invece alla Frank Expo tendiamo sempre ad aggiornarci, sempre a migliorarci. Infatti abbiamo più volte cambiato grafica, quella che c'è mo' è la terza, se non sbaglio, Quattro, sì. completamente ristilizzato. Comunque ogni tanto introduciamo cose nuove, possibilità di caricare musica ultimamente, di caricare video, cercare di aprire artwork. Inoltre cerchiamo di collegarci anche con YouTube, social network e tutto il resto per cercare di ampliare quanto più possibile, anche perché trovare, come diciamo prima, persone appassionati di fan games, indie games, è più difficile di trovare persone appassionate di un gioco per PlayStation. Dai, beh, certo. E infatti all'inizio abbiamo cercato molto su, diciamo, gli unici che potevano comprendere e piacere i nostri giochi, quali i vari forum di retro games. Ah, lì sì. E poi, sai, i retro gamers di solito sono più gentili, mentre i giocatori moderni sono molto più... Giocatore moderno e la grafica spettacolare. Ma anche proprio a livello personale, sono più spocchiosi e so tutto io. I retro gamers sono più soft. No, sì, abbiamo avuto infatti anche da vari forum molto appoggio. All'inizio avevamo anche una piccola sezione che permetteva di giocare ai retro game online, cosa che poi abbiamo eliminato per focalizzarci sempre di più sugli indie games e dare attenzione lì, perché diciamo inizialmente quella sezione era stata fatta come dire, una sorta di amo per far Esca. abboccare qualcuno, una sorta di esca, sì. Lì provavano il gioco e poi a fianco c'era il gioco Micio, di Micio Segone e dicevano dai, può essere che ora ci clicca sopra. Cos'è Micio Segone? Cos'è sto nome assurdo? Sviluppatori che rovinano tutto, insomma, guarda. Vabbè. Davvero, davvero è andato bene comunque, sta andando bene. Ultimamente poi nel momento in cui diciamo, abbiamo visto che in Italia cominciavamo a ricoprire davvero una buona posizione, abbiamo iniziato pure a cercare diciamo, di far conoscere i giochi all'estero, appunto collegare più giochi stranieri, più sviluppatori stranieri, più siti stranieri. E in Europa, infatti, ultimamente stiamo iniziando ad avere buone posizioni, i siti ci contattano, si sta sviluppando piuttosto bene, Una al di cosa. sopra Vabbè, delle nostre aspettative. è perché comunque, come dicevo, cioè, l'avete impostato nel modo in cui serviva, perché una piattaforma così serviva. Sì, e ora cercheremo di fare quanto più possibile, di farla servire sempre di più, essere sempre più utile. Cioè, Anche fare in perché modo... Dimmi. una cosa, parlando da, diciamo, fruitore da che mette giochi, quindi che. Diciamo, è quello che deve trovare un po' più funzionale la piattaforma. Il metodo di inserimento giochi è quello che deve essere, perché molti siti ti mettono delle condizioni, ad esempio, che deve essere un installer, per dire, che deve avere un pad file, che deve essere così, che deve essere più piccolo di tot, oppure... aspetta, mi sono perso. Oppure che il gioco deve essere testato da chissà chi e ci mette 3 settimane, 1 mese prima di essere inserito, mentre qui l'inserimento è immediato. È immediato, è semplice, è dinamico. Cioè, tu immediatamente fai il tuo gioco, lo vuoi far conoscere, pigli e lo metti. Poi, inoltre, non limitiamo diciamo, il link di download, ecco. Tu puoi tranquillamente mettere il link di qualunque altro sito, se tu lo tieni su Mediafire, lo pigli, lo metti su Mediafire e poi ci aggiungi il link all'interno della pagina che puoi modificare in qualunque momento, che puoi comunque... Stiamo davvero cercando di dare sempre più possibilità. Ultimamente cerchiamo anche di utilizzare il nostro spazio internet. Infatti le musiche, gli screenshot li facciamo tutti caricare sul nostro spazio in modo che l'immagine non diventi non visualizzabile dopo una settimana, come capita quando si mettono a volte. Esattamente, anche questo succede purtroppo nel mondo del freeware. Su Imagine Ask metti un'immagine, dopo due giorni non c'è più l'immagine e cose così. Noi permettiamo di mettere l'immagine direttamente all'interno dello spazio del sito, e chi utilizza il sito sa che noi ci stiamo quest'anno, come ci staremmo l'anno prossimo e come ci saremmo ancora, che continuiamo sempre di più a svilupparci, quindi sta sicuro che la sua immagine, la sua impronta rimane. E che comunque può usarlo come link per linkarlo nei forum e cose varie. Cioè, è come avere un hosting di immagini fisso, sicuro. Sì. Vedo che la nuova sezione artwork la stanno usando abbastanza. Io ci ho messo quello che avevo, anche nella musica. Sì, quella, diciamo, la sezione Artwork, Video Gallery e Sound Gallery sono state create principalmente per iniziare a lanciare queste nuove introduzioni che sono state fatte, ovvero per far capire alla gente: ehi, vedi che ora puoi caricare anche le soundtrack sul sito, ehi, vedi che ora ci stanno anche i video delle persone. Abbiamo cercato di, ecco, aprire queste sezioni per pubblicizzare queste cose, per fare in modo che la gente vada sul sito, casomai modifica il proprio gioco, ci aggiunge le cose nuove, in modo che aumenta anche di più la visibilità, in modo che una persona, quando vuole scaricare il gioco, può darsi prima un'occhiata generale e poi scaricarsi il gioco. E stiamo cercando di includere tutte queste nuove introduzioni all'interno di quella che noi definiamo la game page, ovvero... Sì. La tua pagina del gioco, in modo che successivamente, con la nuova versione che andremo a lanciare, cercheremo di sostituire le sezioni Video Gallery e Sound Gallery con qualcos'altro che può essere utile sia per sviluppatori sia per chi è appassionato appunto a giocare a questi tipi di videogiochi. Inoltre adesso sono sul portale, no? Comunque Crank Expo, ho visto, sta anche l'estate scorsa tentò di fare un contest che poi non, purtroppo non è partito, e invece adesso è affiliato a due contest molto grossi. Sì, ci stiamo iniziando, diciamo, dato che iniziamo a conoscere vari admin di vari forum, e sebbene all'inizio, sai, il sito piccolo, noi non eravamo visti, proprio nascono siti ogni giorno, siti come il nostro forse un po' di meno, però all'inizio nessuno ci calcolava più di tanto, eravamo visti come una piccola realtà, pian piano abbiamo iniziato ad avere sempre di più risalto. Allora stiamo, diciamo, più che organizzare un nostro contest, stiamo cercando di aiutare gli altri a sponsorizzare i propri, a fare un poco, diciamo, da faro anche a livello europeo proprio. Infatti stiamo sponsorizzando quello che vedi tu, che è il contest di Macherando, sì. Che stanno facendo davvero un'ottima cosa, stanno riunendo varie comunità, sia di RPG Maker sia anche di non RPG Maker, per lanciare appunto questo contest nazionale, proprio italiano nazionale. Il gioco che uscirà da là sarà quello che i giudici valuteranno essere uno dei giochi conosciuti migliori in Italia nel giro di quell'anno. Ma stiamo allo stesso punto anche cercando di affiliarci e sponsorizzare contest americani, inglesi, sì, che mettono premi anche allettanti, premi in denaro, modelli 3D gratis, musica da iTunes. Il Macherando è davvero interessante, a differenza di quello inglese, che, diciamo, non che non sia interessante, ma è un classico. E poi è riservato solo a Game Maker, quindi... È riservato solo a Game Maker e poi è basato sulla tematica, è basato sulla tematica del futuro, se non sbaglio. Sì. Macherando invece sta facendo quello che negli altri paesi europei già facevano da tempo, perché già in Francia, ecco, con l'Alex Dor, col quale stiamo anche collaborando, facevano questo contest nazionale in cui tutti i forum si mettevano d'accordo sul creare un contest nazionale per giudicare, per valutare i giochi più idonei. E noi, sebbene con un po' di ritardo, forse perché le comunità erano viste tutte quante in competizione l'uno con l'altro, tutti quanti un poco... il contest di questa comunità è meglio del contest di quest'altra comunità, ora stiamo per la prima volta riuscendo a unificare tutto e a fare un unico grande contest, che è importante perché significa che il gioco che uscirà da lì è davvero un gioco significativo, un gioco valutato da tante persone molto bene, e questo aiuta, incoraggia sia prima di tutto le persone a sviluppare, incoraggia anche le persone dei vari forum a mettersi d'accordo, a cooperare tra di loro per lo sviluppo dei videogiochi indipendenti, e sia dimmi, anche perché questo contest particolare è in team, bisogna essere per forza in tre. Sì, bisogna essere minimo in tre, se non sbaglio. Motivo però... per cui non partecipo io. Bisogna essere in tre, e si hanno cercato subito affiliazioni con forum di RPG Maker, quale RPG2S, sia con Game Maker Italia, sebbene l'unica cosa è che i premi per ora, in quanto non so se Dario, se non sbaglio l'amministratore, poi vorrà ampliarli, ma per ora i premi sono licenze di RPG Maker, sì, e quindi limita un poco la partecipazione, in quanto una persona che programma con Game Maker casomai si sente meno coinvolto, in quanto vincerebbe una licenza che non gli interessa. Però più che vedere questo, si dovrebbe vedere a quello che il contest dà, cioè non il premio in denaro o il premio della licenza, quanto un'ampia visibilità del proprio gioco, che è una cosa importante. Sai, mi stai facendo venire voglia di partecipare, sai, adesso lo vedo, perché io e mio fratello siamo, che comunque siamo sempre, nei giochi ci siamo sempre tutti e due, siamo due, trovo un terzo, anzi, il musicista è già il terzo, sono pronto. No, ma massimo tre, se non sbaglio, quindi o due o tre persone. Ah, anche due va bene? Se non sbaglio sì, poi puoi leggerti anche il bando che sta sul nostro sito. Sì, lo sto guardando adesso. Può darsi che parteciperò, tanto per giugno altri 3-4 giochi li ho già fatti, quindi uno io lo inserisco. mi è venuto in mente un aneddoto adesso parlando di Makerando, posso raccontare un aneddoto? Vai. Anni e anni fa, quando ero ancora al mio primo gioco, andai sul vecchio Makerando, adesso è cambiato il forum, infatti ero andato a cercarla quella discussione, ma purtroppo non esiste più. Sì, prima era .it, poi ora è .com, nuova amministrazione. Esatto, e tutto quello che c'è nel vecchio forum è andato perso, purtroppo. Penso di sì. Questa cosa la racconto senza malizia, non ce l'ho con nessuno, però è divertente. Praticamente, diciamo che volevamo fare una cosa tipo Frank Expo, io e Riccardo, quell'altro che è lì adesso. Ci sei, Riccardo? Ecco, altra concorrenza. No, era diverso, dai. Era un forum, era. No, era ancora prima, era praticamente Frank è vendicativo, quando troviamo questi siti iniziamo sfide incredibili. No, era una cosa diversa, adesso te lo spiego. Praticamente dopo The Vadula's Barn, ancora il nome Micio Secone Games non c'era, si chiamava Fortuna Sart, mi sembra, il nome provvisorio. Dio, che schifo veramente, questo imitare la Lucas Art mi disgusta oggi. Allora, creando T-Rex e Muscle Sam, creiamo il primo sito e il nome, coniamo il nome Micio Secone Games. E ci venne l'idea di, per diffondere, diciamo, la software house, di integrare altri giochi. Allora io andavo nei forum a dire, noi vi aiutiamo a creare il gioco, vi diamo piattaforme per pubblicizzarlo, vi diamo i consigli, però voi dovete mettere Micio Secone Games come banner all'inizio del gioco. E su Makerando due ragazzini mi risposero: nessuno, Micio Secone Games fa pensare ai giochi hentai, nessuno vorrebbe mettere Micio Secone Games nel suo gioco. Oggi nel 2012 Micio Secone Games si è associato a associazioni di volontariato, European Games Award, altri concorsi internazionali, Softonic, Softpedia e altre piattaforme che non vado a citare, comunque ovunque. Buono. Quindi il futuro, ragazzi, il futuro non è prevedibile. Come Frank Expo nessuno avrebbe creduto, cioè almeno i loro creatori non credevano di crescere così tanto. Quindi se vi vengono proposte occasioni, non pensate, no, cioè pensate in vista del futuro. Sì. No, ma inoltre il fatto di questa... Era magica. Il fatto di questa improvvisa crescita, comunque... Cioè, è stata davvero stimolante, in quanto abbiamo sempre di più cercato di prestare attenzione, Io te l'ho detto, mi occupo molto della pubblicità, vado su Yahoo Answer e indirizzo le persone a specifici giochi che stanno sul sito. Frank, diciamo, si occupa molto di parlare con gli sviluppatori di videogiochi, degli admin dei vari forum. Cercare un poco alleanze, pubblicità, cercare di connettersi con gli altri, un poco di collegarsi e non solo, ripeto, a livello italiano, ma a livello anche internazionale. Soprattutto con la Francia, ultimamente stiamo avendo molti appoggi e si è creato un buon feeling, diciamo. Sì, ho visto che in Francia le RPG Maker va molto. Sì, e fanno cose spettacolari. Sì, veramente, cioè, che ti chiedi, ma è veramente RPG Maker? Sì. Invece in Germania va molto AGS, però se, i creatori di avventure grafiche non sono come me, che io devo essere adorato da tutti e quindi mi infilo ovunque. Gli altri creatori di avventure grafiche sono un po' più riservati e quindi è per quello che magari non vengono. No, noi cerchiamo, te l'ho detto, quanto più di pubblicizzare ogni tipo di gioco. Quando vediamo che casomai un gioco è passato un poco sott'occhio, cerchiamo di ripescarlo fuori e ridarci nuovamente importanza. Cerchiamo sempre di fare in modo che le persone trovino, beh, si orientino bene nel sito, riescono a fare tutto ciò che fanno. E sì, proprio io che mi occupo molto anche delle mail, veramente. Seguiamo passo dopo passo ogni singola persona e nonostante sono 320 giochi e molti più iscritti, cerchiamo di dare comunque importanza a tutti quanti. Invece, ecco, a volte per dire una persona ha un problema nella registrazione, potremmo benissimo semplicemente ignorarla, dire sì, vabbè, senti, tu sei l'unico su 500 iscritti che c'ha sto problema, arrivederci. Invece ci mettiamo pian piano a dedicarci singolarmente, perché alla fine ogni singolo utente è importante per noi, perché ogni singolo utente, se viene sul nostro sito, ha una buona impressione del sito, chiama una persona e gli dice: senti, vedi che il tuo gioco, volendo, lo puoi mettere anche qui sopra, oppure Sì. vieni a scaricare un poco il gioco dal portale. Quello che noi puntiamo è fare in modo che le persone, per presentare il proprio gioco, diano la game page della Frank Expo, la pagina del gioco che sta sulla Frank Expo, in modo che poi questi giochi abbiano più visibilità, in modo che questi giochi vengano votati, rientrano nelle classifiche. Teniamo la classifica che è esclusivamente, su volere di Frank Intersimone, esclusivamente popolare. Cioè, i voti sono tutti quanti dati dagli utenti iscritti e non ci sono tipo giudici che danno un voto maggiore, che il voto, ecco, non è che il mio voto vale 3 volte quello di un altro utente iscritto. Sono tutti quanti voti uguali, tutti quanti votazioni proprio popolari. E questo Infatti è perché questo qui appunto. il motivo per cui non sfoggio le bellissime targhette dei miei videogiochi, che sono meravigliose, però non le sfoggio perché i miei voti non sono altissimi Ah, e non ho tanti ecco. download, allora non le faccio vedere in giro, però le mie targhette sono belle. Se non le inizierai però mai a diffondere, non potranno mai arrivare tutti quanti Ah, questi voti e tutte quante qui. adesso che ho notato che c'è la world per i 125 download, devo averlo con tutti e 9 i giochi, eh. Cioè, per i 125, i 250 e i 500, puoi Ecco, de anche. devo sbloccarli tutti io. Sì, e inoltre ne vogliamo inserire anche altre. E un'altra cosa che potrebbe interessarti a te personalmente, quale sviluppatore registrato al sito, è che tra qualche tempo sapevo che Fed e Frank stavano sviluppando una classifica che fosse divisa per generi. Quindi tu potrai vedere sul sito qual è considerato il miglior, io ad esempio, il miglior point and click Bene. su quelli che ci sono, e quindi Perché si vedrà. allora occupo già le prime due posizioni, questo è bene. Già hai fatto tutto il calcolo? Sì, a Cat Knight è il primo, The Battle of the Pumpkin è il secondo. Bene, sono già primo e secondo, sono contento. Frank, sbrigati, mi raccomando. Attento perché te l'ho detto, mo c'è Free Skies che ti farà vita No, no. competenza, eh? Io ai giochi di Andrea, di Apri Skies e di Dark Cloud ho sempre 5, sono molto imparziale. Ora non sei più, prima tenevi il monopolio nei point and click quasi. Vabbè, adesso ormai Aprisky è come un fratello, quindi non c'è problema. Chissà se la Frank Expo avrà modo di vedere sviluppata qualcosa di voi due insieme. Non lo so perché. Non lo so. Io e Andrea lavoriamo in modo molto diverso e quindi, infatti, io non lavoro in team perché sono velocissimo e se gli altri non stanno alla mia velocità li caccio e quindi devo trovare qualcuno veloce come me, quello è il problema. Sì, e comunque sembra anche molto in gamba lui. Noi abbiamo dato spazio al suo gioco anche con un banner nello In gamba slideshow iniziale. è fenomenale. Cioè, quando fece Colin il tesoro, no? Mi disse che non aveva disegnato a mano perché disegnava a mano, era lento, i risultati non erano, diciamo, altissimi. Cioè, guarda, i risultati cosa sono più che altissimi. Sì, ti ho sentito dire questo anche nello scorso podcast. Ecco, già ormai devo fare pubblicità a lui. Di solito, allora, è perché nel Triforce facciamo pubblicità a GameStop e in Ask the Maker facciamo pubblicità ai game maker che conosco io, ok? Facciamo così. Invece di fare scarica Space Hunter, scarica Space Hunter, scarica Space Hunter, ti metti a dire scarica Donald Owl. No, più che altro che io tutte le puntate dovrei dire visitate il sito Micio Secondo Games, me lo scordo sempre. Vabbè. Allora, alla fine dell'intervista faccio visitate il sito frankexpo.net. No, quello lo diremo sicuramente. Così. Se lo dici te è meglio perché io devo andarlo a leggere per sapere bene la scritta. Sì, se no si sbaglia l'indirizzo in qualche sito strano. No, comunque. E te, Marius, qual è il gioco che preferisci di quelli che sono su Comunque stiamo FrankExpo? cercando veramente. Cosa? Io? Non ti sento Mi più. senti? Sì, ora sì. Ora non più. Mi senti? Ora sì. È un casino. Cosa è successo? Stavi dicendo, scusami? Non Qual è il gioco che lo preferisci? so. Non lo so. Cosa? Devo dire che trovo. Mi senti? Sì, ora sì. Come cavolo. Senti, io non ho toccato nulla. Se tu ora ti metti a giocare con Skype, No, non sto facendo niente. io il gioco che trovo più interessante è Pocket Quest. Sì, detestami. Dai. Mi senti? Sì, vai, vai. Allora, il gioco che io trovo più interessante. Ok, perfetto. Il gioco che trovo più interessante attualmente nella Frank Expo è Pocket Quest. Non so se hai avuto modo di vederlo, è sviluppato da Sì, Testament. Ed conosco. è. Non sembra, ma è fatto con RPG Maker. Lo so, Eh? sono sorpreso anch'io. Seppure, cioè, è irriconoscibile, ecco. Cioè, a parte, diciamo, i colori e lo stile un po' che ricorda gli RPG, non sembrerebbe. Sì, lui ha voluto, se non sbaglio, un po' confondere il gioco da tavolo, tipo il gioco dell'oca, con quello che può essere un RPG. E sebbene a volte queste fusioni tra vari generi possono essere molto rischiose perché non si sa il prodotto che esce fuori. Lui è riuscito davvero a sviluppare qualcosa di incredibilmente bello, incredibilmente divertente, perché è simpatico, è divertente, è fatto bene a livelli di grafica, giusta scelta nei colori. È Davvero lo innovativo. consiglio. Davvero lo consiglio, è innovativo, sì. Adesso lo stavo cercando. Vabbè, c'è la barra di ricerca. Vabbè, comunque l'ho presente molto bene. Sì, sta pure in classifica, se non sbaglio sta al sesto posto, penso, giù Ecco, sì. di lì. Trovato, trovato. E ok. Poi ho visto anche i lavori di Testament su DeviantArt, è molto molto bravo. Sì, è molto bravo. Ed è uno, diciamo, degli anziani di RPG Maker, cioè che in qualunque comunità di RPG Maker chiunque lo conosce, ecco. Poi ci sono molti altri giochi sviluppati e davvero interessanti, quelli di Dark Leo, che so anche a te piacciono. Certo. sono molto, molti sul sito è indubbiamente molto rilevante la presenza di RPG, cioè abbiamo davvero molti molti RPG, però gli altri giochi, Scouting Scout che hanno messo anche ultimamente, vari platform, vari point and click molto interessanti. Ma mi pare che Frank Expo quando è nata era più che altro diretta verso gli RPG più che i giochi in generale. Eh sì, perché Frank, come Frank e InterSimone, erano sviluppatori con RPG Maker principalmente. E quindi diciamo erano molto conosciuti in quella comunità, in quelle comunità, quindi hanno subito avuto il pieno appoggio di tutti questi forum e di tutti questi siti. Poi su Game Maker Italia ci siamo trovati anche davvero molto molto bene, alla gente ha fatto piacere, preferisce alcuni preferiscono il nostro sito a YoYo Games e noi quando ci sentiamo dire cose del genere ci gasiamo un botto. Io sono arrivato grazie a dello spam di Apu sul nostro forum che era morto, Riccardo. Sì, Ecco. mi ricordo, E mi c'era dello ricordo. spam di Apu che ci ha indirizzato qua. Sì, noi davvero riusciamo a fare grandi passi da gigante attraverso i volontari, le persone che come noi sono appassionati agli indie games, ai freeware e vogliono far conoscere questa realtà anche altre persone che pensano, scrivono su Arena 80 e pubblicizzano il nostro sito. Questi sono dei grandi. Eh già, chissà chi è. Ogni Già. riferimento è puramente casuale. Ah, deve essere Dio, quel Dio. Apo non è più nello staff, vedo. No, no, ma molti sono volontari che diciamo arrivano, vengono, ci danno una mano e poi svaniscono oppure continuano ad aiutarci ogni tanto. Anche sul nostro canale YouTube, alcuni video che si riconoscono perché sta scritto appunto fan video sono Sì. realizzati da persone che vedono i giochi e dicono: Senti, ma ti va bene se ti realizziamo un video su questi tre o quattro videogiochi? E noi logicamente li accogliamo a braccia aperte. E poi li sponsorizziamo sul nostro sito, sul nostro canale YouTube, su Facebook. L'aiuto di volontari c'è fondamentale, ma proprio fondamentale. E logicamente le persone hanno piacere a collaborare con noi nel momento in cui vedono che noi, oltre a produrre risultati, produciamo qualcosa di buono, di bello, che Vabbè, alla fine piace. è uno scambio. Voi fate pubblicità a loro e loro fanno pubblicità a voi. Sì, più o meno è questo, ma oltre che lo scambio è anche lo stessa passione verso lo stesso La tipo stessa di cosa. giochi, la stessa cosa, sì. Mi manca il banner di Frank Expo, adesso me lo preparerò. Te lo procuriamo noi se vuoi, ce ne abbiamo centinaia di banner. Ah, ottimo. Qualcosa di piccolino, dopo ci guardiamo. No, no, no, o metti una cosa a tutto schermo da utilizzare anche Vabbè, come sfondo sul desktop oppure da niente. visualizzare con F11 tutto No, vabbè, dentro. dai, io sono un poveraccio e mi rifiuto di mettere i banner di Altervista sul mio sito per fare quei pochi centesimi per comprarmi l'ultimo numero di Landog e devo mettere i banner gigante, no. Vabbè, noi con i pochi spiccioli che riusciamo a ricavare ci paghiamo i nostri domini e i nostri spazi che poi riutilizziamo per gli sviluppatori. Sì, Cioè, certo, cioè, noi comunque. non abbiamo Non fatto il sito. sono soldi che usa Frank per andare a mangiare la pizza, diciamo. Esatto, Esattamente. Anche in realtà lo, tanto lo vedi in giro col Ferrari perché. e Sì, ci chiede Ferrari perché, di cosa ha cartapesta. fatto. Ma quanto produce il sito? Ogni tanto ci chiedono. Spiccioli proprio. Ma non credo, infatti, E produrrà logicamente, a scopo. dato che noi non l'abbiamo fatto a scopo di lucro il sito, li riutilizziamo solo ed esclusivamente per dare vantaggi a chi mette i Certo. giochi nel nostro Certo. spazio. Se loro credono in noi, noi crediamo in loro e gli offriamo anche i mezzi, ecco. È autofinanziamento, è giusto così. Sì, autofinanziamento, ma non solo autofinanziamento per noi stessi, cerchiamo anche, dato che alla fine il sito si espande nel momento in cui la gente aggiunge il proprio gioco. Noi dobbiamo parte della nostra espansione alle persone che sono iscritte da noi, credono in noi e caricano i giochi. Quindi Certo. il minimo che possiamo fare è uno, aiutarli a diffondere i loro giochi. Due, cercare di premiarli in qualunque modo possibile. Tre, cercare di far conoscere i loro giochi ovunque, dare loro la possibilità di migliorare. di avere votazioni da parte della gente, di avere commenti in maniera che possano capire dove sbagliano, dove fanno bene, dove fanno male. E inoltre abbiamo anche la piccola zona in cui spieghiamo un poco i tool più famosi, l'utilizzo, come sono fatti. Lì ho una cosa da dire, però. Avete messo che RPG Maker è più difficile di Adventure Game Studio? Io non sono molto d'accordo, però. Allora, qui adesso mi intrometto anche io. Allora, cioè, RPG Maker in sé può essere più semplice per fare le cose basilari. E quando si tratta di dover fare delle cose un pochino più complicate, che è molto più difficile a fine di AGS, molto meno intuitivo. AGS, anche se alla fine già di base un pochino più difficile di RPG Maker, però fai tutto nello stesso modo. Cioè, RPG Maker certe cose sono veramente complicate. Tu hai visto il gioco di Frank su YouTube? Oppure Pocket Quest? Cioè, quelli davvero esulano quasi da RPG Maker. Sì, RPG Maker prendono solo il nome. Esatto, RPG Maker è un pretesto lì, non c'entra più niente. Ma sviluppano, ma guarda che nonostante anche persone che sviluppano con RPG Maker e fanno stile giochi in pieno stile RPG Maker, comunque fanno giochi con una bella trama, certo, molto, certo. Molto. Il primo in classifica nel nostro sito è proprio un gioco sviluppato con Fifth Era. Sì, sì. Ah, ma anch'io sono un fan dei vecchi RPG, dal 2000 in poi, diciamo, da Final Fantasy X in poi non è più uscito un RPG decente, a mio parere, a livello commerciale, non freeware. Io ho iniziato il game making con RPG Maker molto prima di Dwadula's Barn, senza combinare niente, ovviamente. E sì, prima mi ricordo poi, progetti morti, rimorti. Ve lo dico, prima o poi farò un RPG coi controcoglioni. La storia ce l'ho già, e semplicemente non ho voglia di disegnare. Perché io l'RTP standard lo odio. Cioè, l'RTP standard mi fa vomitare. Quindi sono obbligato a disegnarmi tutti i tileset. È quello che mi ferma. Che ne sono parecchi. Se vuoi fare un gioco originale, non puoi pensare di fare. E quindi prima o poi farò l'RPG. La storia ce l'ho già ed è meravigliosa, ve lo dico io, ma è meravigliosa globalmente, lo sarebbe per tutti. sono molto sicuro di me, solo che non ho voglia di disegnare tutti i tileset, prima o poi lo farò. No, ok, nel 2030 cos'è che farai quindi? No, dai, tra 10 giochi, quindi nel 2013. No, comunque te l'ho detto, noi puntiamo sempre di più a dare visibilità, perché alla fine quello che io sinceramente adoro i giochi indipendenti, non quanto, cioè proprio per il pensiero dei giochi indipendenti, perché ultimamente si sembra che nel momento in cui si vuole sviluppare un videogioco lo si vuole sviluppare per vendere, per guadagnarsi. Sì. E quindi non sviluppi più qualcosa che piace a te, ma sviluppi qualcosa che può piacere alla tua software house, diciamo. E dato che ormai stanno con i vari Steam e i vari sviluppi di indie games, sembra che le software house ci stanno un po' perdendo. No, diciamo che, come dico sempre io, la differenza è che una volta i videogiochi li facevano i sognatori, li facevano per realizzare i loro sogni, adesso i videogiochi li fanno per riempire il portafoglio. Esattamente, mo' i giochi si fanno per vendere, quindi si è schiavi del pubblico, cioè devi fare qualcosa che piaccia alla gente. Il cliente ha sempre ragione. Il cliente ha sempre ragione, il cliente è quello che va soddisfatto, devi colpire il cliente. Non era così, perché una volta comunque se tu eri bravo dettavi legge, cioè ad esempio la LucasArts, mi viene in mente LucasArts, o anche la Squaresoft con Final Fantasy, erano loro che dettavano le regole, però il giocatore era sempre contento. Sì, sì, sì, perché noi siamo per questo presupposto, cioè bisogna fare il gioco che a te piace. Aspetta, no. Allora, non è che funziona proprio così. Loro hanno fatto un gioco, hanno visto che funzionava, vi vendevano. Riccardo, tu sei un freddo programmatore, non puoi capire, la bellezza di questo. Allora, te non puoi capire come può pensare un capo di una software house come può essere la LucasArts. Non puoi pensare che la LucasArts... Giorgio Lucas, un ciccione barbuto. Esatto, non puoi pensare che uno che ora vive facendo remake dei propri film, eccetera, no, aspetta, possa fare videogiochi. Fermo, fermo, devo fare una rettifica. In realtà George Lucas creò la LucasArts solo per fare, in realtà la lasciò fare, cioè per 10 anni lui non ci ha guardato cosa facevano. Poi non dico che l'intero team di qualsiasi gioco che hanno prodotto fosse da gente fredda che pensava solo ai soldi. Allora, la Però differenza. No, non è così, non è così. I sognatori esistono ancora, però ora sono meno liberi. Diciamo che vincolati alle leggi di mercato. un esempio è la Pendulo Studio, che sono tutti amici che hanno iniziato assieme facendo avventure che uscivano solo in Spagna. E comunque adesso loro lavorano secondo le loro regole. Gli ultimi due giochi hanno venduto poco e hanno fatto schifo perché loro stanno sbagliando strada, effettivamente. Però la Pendulo Studio è un esempio di sognatori, amici che Sì. continuano a fare i videogiochi. Mentre un esempio contrario è la Telltale, che, scusate, ne parlo sempre male, ma è la realtà dei fatti, compra licenze famose perché sono sicuri che così fanno soldi. Quello sì, quello è anche abbastanza brutto come cosa. No, fanno schifo semplicemente. Già. Basta, torniamo a Frank Espo, basta parlare di quanto era bello una volta quando i giochi erano fatti dai sognatori e non dagli speculatori. Ma noi cioè noi puntiamo ai giochi fatti dai sognatori. Cioè, per noi è il primo obiettivo far continuare a sognare la gente e far sviluppare i propri giochi liberamente, senza pensare a se piacerà o no a una determinata cosa. Qualunque persona che sviluppa un freeware non penso sia molto attaccato ai soldi che Cioè, farà con il videogioco. come Dark Appunto. Leo, quando abbiamo sentito Dark Leo, lui ci ha detto che lo fa perché gli piace, non ci pensa minimamente a diventare commerciale. Lui è il suo hobby e non lo vuole mischiare col lavoro. Sì, è giustissimo. Molti game Noi. maker sono gente che lavora anche per settori completamente diversi, che hanno Certo. una vita, uno stipendio, magari Happy Skies soffani. non ho capito che lavoro fa, Vabbè, ma vedo ogni. che giocherella con tanti numeri, quindi è un lavorone di quelli. Ma magari fai, che so, il programmatore di cose, di software aziendali, per dire, e Sì, nel sì. Io tempo libero programmi videogiochi. sono disoccupato, ma un giorno dominerò l'industria dei videogiochi. A noi molti ragazzi che ogni tanto ci aiutano come volontari sono sviluppatori PHP, sviluppatori professionisti che vengono e dicono: "Senti, ho visto il tuo sito, mi piacciono molto gli indie games, ti va se ti sviluppo una cosa in modo che a fianco escono i video suggeriti?" Noi sì, grazie. E È bello. abbiamo sempre più sostegno. Sì, davvero abbiamo molto appoggio. E grazie all'appoggio che forse siamo riusciti ad avere tutti questi numeri e tutti questi siamo riusciti a raggiungere tutti questi obiettivi così in fretta. Attualmente siamo oltre 320 giochi E in un parliamo un anno e po'. mezzo. Sì, infatti io mi ricordo, io non so, sono arrivato che era già iniziato, aperto da 3-4 mesi, Frank Ah, dopo. Expo. Anzi, c'è scritto, vado a vedere quando ho messo dove vado la sbaglio. Intanto parliamo un po' di numeri, a livello di visite, così, parliamo di numeri alti, sì. Sì, visite, siamo partiti logicamente in maniera bassa, poi pian piano diffondendoci in Europa, in siti tedeschi, francesi, inglesi. Attualmente stiamo più o meno sulle 4.000 visite al mese in continua Cacchio. salita. Sì, sono davvero molte, continuano ad aumentare, noi cerchiamo di rafforzare e soprattutto cerchiamo di direzionare sempre meglio le visite perché appunto noi puntiamo a pubblicizzare ogni singolo gioco che sta sul sito e quindi se vediamo un gioco che viene sottovalutato, un gioco che è passato un attimo in ombra perché casomai è stato inserito, il momento in cui sono stati inseriti altri 5 giochi automaticamente è andato a finire da qualche parte, cerchiamo di ripescarlo, rimetterlo in evidenza, cerchiamo di farlo anche attraverso YouTube, attraverso Facebook, Twitter. Poi i download sono all'incirca 19.000-18.000. Dei quali E 732 sono miei. Ce l'ho scritto qui davanti. sì, abbiamo fatto anche un piccolo, diciamo, pannello di controllo portatile, quello là, diciamo, a destra, in modo che gli sviluppatori, nel momento in cui arrivano sul sito della Frank Expo, possono subito vedere quanti sono i download totali che hanno, Bene, quali io sono i giochi che ho hanno un messi. 19esimo, ne No, è buono, è buono. Vabbè, cioè, ho Tu davvero hai caricato. contribuito fin dall'inizio. No, più che altro ho caricato un sacco di roba di amici che non fanno più giochi e che i loro giochi erano destinati a morire, li ho messi dentro. E quindi No, accumulo anche i loro che punti. poi No, no, ma alla fine l'importante è diffondere il gioco, anche perché nessuno ci guadagna niente. Non è che tu ci guadagni 10 euro per ogni download in più, No, o solo noi in pagamento personale. prestazioni. Senti, no, noi ad esempio, te l'ho detto, siamo totalmente liberi da vincoli monetari. Potremmo, volendo, dire se vuoi il banner in home, ci devi dare 10 euro. E ci stanno alcuni francesi, tedeschi che ci tengono proprio a pubblicizzarsi in quanto. Quindi, volendo, noi potremmo riuscire a guadagnare qualcosa, ma guadagnare sulle spalle di sviluppatori È brutto. indipendenti, ovvero guadagnare. Sulle persone, no, sarebbe, cioè, è un controsenso. Noi vogliamo aiutare gli sviluppatori e ci facciamo pagare, cioè, sarebbe una cosa stupida da parte nostra. Noi vogliamo cercare di dare quanto più vantaggi agli sviluppatori di videogiochi. E quindi, se un domani dovessimo ricevere dei soldi, da tutti vorremmo riceverli fuorché da loro. Noi vorremmo indirizzarli a loro. Volevamo cercare, addirittura si sta parlando di progetti futuri per versioni future della Frank Expo, di fare in modo di creare alcuni progetti, di sovvenzionare alcuni progetti, alcune demo, dare dei contributi. Stiamo cercando di, però logicamente le viste dovranno aumentare ancora di più, i download dovrebbero aumentare ancora di più, i giochi dovrebbero aumentare ancora di più, è per questo che noi cerchiamo di fare forza e aiutarci di tanti volontari che pigliano le persone e dicono vieni a vedere questo sito, perché molti che vengono sul sito automaticamente il giorno dopo ci ritornano, Sì, vogliono commentare, vogliono sviluppare. Gli sviluppatori sono quelli logicamente che ritornano di più per vedere quanti download hanno raccolto in un giorno, per vedere come sta andando il loro gioco in questo spazio. Infatti stiamo cercando anche di sviluppare delle piccole immagini da mettere nelle firme, in maniera che uno può mettere l'immagine della Frank Expo, del proprio gioco, sulla firma, in modo che può essere reindirizzato là, in questa maniera rafforzare il loro gioco e portare visite al sito. il mio IP sarà onnipresente. Io vengo 4-5 volte al giorno, tipo a vedere. Anche perché sai cos'è la cosa bella? Che quando uno arriva e si appassiona, inizia a provare tutti i giochi e a commentare. Ad esempio, adesso c'è Destroia che sta commentando ogni giorno tre giochi, per dire. Sì. Sì, È bello vedere che comunque apprezzano. no, è davvero da molte soddisfazioni. Poi quando a volte giri per altri siti e vedi persone che dicono sono felice che hanno messo questo mio banner all'interno della Frank Expo, oppure ragazzi che sui loro blog dicono abbiamo messo il gioco all'interno della Frank Expo, un portale italiano che cerca di pubblicizzare giochi freeware indipendenti, venitelo a visitare. Noi, cioè, sentiamo che quello che stiamo facendo piace L'ho e quindi fatto anch'io. lo Vabbè. continuiamo. Sì, lo so, anche se te ne vuoi vantare ogni volta, lo No, so. no, no, dico che Cerchiamo. anch'io ho avuto il banner in home e l'avevo scritto sul sito. Non mi Ah, ricordo perché. quanti mesi fa. Adesso aspetta, sto navigando tra le vecchie notizie del mio sito, tra le bestemmie e gli insulti. Sì, mi sa a giugno. Vabbè, vai avanti. No, no, comunque te l'ho detto, noi grazie all'aiuto di persone, gli sviluppatori tornano sempre e quindi pure tu, ecco, se tu torni ogni volta sul sito, significa che c'è qualcosa che ti piace, significa che stiamo andando bene, stiamo prestando la giusta attenzione alle giuste cose. Sai una cosa? Ho trovato la news di che aprile c'era il banner di Space Hunter e c'è l'immagine. Io Frank Expo non me la ricordavo così, è cambiata tantissimo. Sì, Sì, ma è se vai vero. all'interno, vai nel sito, vai Sì. sulla parte dei contatti. Sì. Se vai sulla parte dei contatti, dovrebbero aver inserito tipo storyline, una cosa del genere. Non la vedo. Perché. Aspetta un poco. Sì, trovata. Stai nei contatti? Sì, c'è. Eccola, sì. E ci sono le varie mask, perché ad esempio ora è venuto ad aiutarci Fed, che era un ragazzo che aiutava Frank col suo progetto RPG Maker, ed è davvero un ottimo programmatore, e ci sta aiutando davvero tantissimo, è anche molto incentivato e molto appassionato e ci sta aiutando davvero molto, gli volevamo far vedere la storia, più o meno i vari cambi di grafica che abbiamo fatto, allora ho detto a sto punto facciamolo vedere a tutti e l'abbiamo messo pubblicamente. Solo la prima mi sono perso, che tra l'altro se guardi l'immagine c'è Tales of Kaleidos nella prima. Non so poi cosa sia successo. no, faceva parte del template, l'hanno tolto. Sì, La prima me la possibile. sono persa purtroppo e io sono arrivato ad aprile, quindi è durata poco. Sì, è durato un mese, poi perché all'inizio si voleva dare importanza ai contenuti, cioè si voleva subito far capire che sito era e cosa si voleva fare. Poi successivamente abbiamo detto ora che la gente incomincia a inserire i propri giochi, cambiamo grafica e diamo un volto migliore alla Frank Expo e abbiamo cambiato grafica. Successivamente abbiamo iniziato a diffonderci in America, in Germania, in Francia. Abbiamo detto rinnoviamo totalmente tutto, apriamo più zone, mettiamo a disposizione più cose e abbiamo lanciato la Frank Expo Mask 3. La Spagna ancora non è pronta, vedo che sono i punti interrogativi su quando sarà pronta la. La Spagna, in quanto abbiamo tradotto il sito in spagnolo, ma stiamo aspettando per diffonderci, per sistemare le ultime cose nel sito, inserire qualche altra novità e poi diffondiamo anche lì. Anche Novità, cosa avete in serbo per noi, se si può dire? No, abbiamo in serbo, te l'ho detto, di diversificare le classifiche in maniera che ogni persona potrà vedere specificamente il proprio gioco all'interno delle proprie categorie, come viene valutato. Ottimo. Poi Fed e Frank mi dicevano che volevano creare anche una zona dove chiedere reclutamenti, offerte, contribuzioni, in modo che la gente, come aiuta noi volontariamente, può aiutare qualcun altro. Tu puoi dire: scusatemi, fatemi un attimo un disegno di un ring di wrestling che non lo riesco bene a disegnare. Una persona passa, lo vede, vuole aiutarti, ti aiuta gratuitamente, tranquillamente, lo fa. Cerchiamo sempre di più di essere faro all'interno proprio dell'Europa tra i vari siti. E quindi cerchiamo di coordinare e inserirci all'interno dei vari contest che stanno facendo. Stiamo collaborando ora con quello inglese, stiamo collaborando anche con uno francese, te l'ho detto prima, Alex Dorr, che a dicembre dovrebbe avere i risultati e i giochi che saranno primi in quei contest verranno automaticamente inseriti all'interno della Frank Expo dai loro creatori. Anche perché noi molte volte quando contattiamo singolarmente dei creatori di videogiochi, e di questo si occupa principalmente Frank, la gente poi mi contatta per email e mi dice: questo è il link, queste sono le immagini, inseritelo. Noi diciamo: no, devi essere tu a inserirlo, non possiamo essere noi, perché quando poi una persona commenterà, quando una persona poi farà una domanda, vorrà sentire da te la risposta che sei il creatore, non da me che. Però per questo la maggior parte dei giochi inseriti sul sito sono stati inseriti direttamente dai propri creatori. Poi, Ma logicamente, infatti. ci sono alcuni giochi che sono stati abbandonati, i creatori non se ne importano più, come i vari point and click di cui ti sei occupato tu, e logicamente quelli li inseriamo noi per fare in modo che Salvarli. la leggenda di quel gioco continui. Sì, perché veramente alcuni di quelli erano proprio tipo quelli di Vincenzo Laurella, conosciuto Dr. Jones come game maker, che adesso Bacteria e roba varia. Erano in un topic abbandonati in un forum alla pagina 500, erano solo lì. Però erano ancora online sul suo spazio altervista, quindi ho detto dai, mettiamoli così almeno la gente li prova, li gioca. Cioè, lui ci ha speso del tempo, mi dispiace che siano No, dimenticati. è giustissimo. Giustissimo. Noi per questo a volte vorremmo proprio creare uno spazio, uno spazio web dove permettere alla gente di ostare, di caricare i propri giochi lì e stare sicuri che noi non cadiamo, quindi se caricano il gioco, la resta. Cioè non come Mediafire o RapidShare che a volte capita che stranamente pigliano e ti levano i giochi perché alla fine sono così diffusi quei siti e così utilizzati per tanti motivi che non possono assicurarti. Noi vorremmo fare a volte quasi un sito di hosting esclusivamente per gli sviluppatori. Logicamente questo però comporta spese molto più Sì, elevate e sì. quindi ci arriveremo progressivamente, pian piano, se continueremo ad andare bene come stiamo andando. Sul nome Frank Expo non credo ci siano, cioè Manie di protagonismo di Frank. Frank Expo sta per Expo Per esposizione. esposizione. Sì. Quindi vabbè, comunque Frank ci ha messo il nome, ma ci avrà messo anche i soldi, l'impegno, credo, quindi dai. Sì, lui si occupa di tutte le spese finanziarie da tutto lui. Si occupa tutto lui. Noi a volte abbiamo detto facciamo una colletta tra noi dello staff, però lui dice no, tranquilli, penso io. Quindi, Quindi e dai, noi se lo logicamente non gli merita. facciamo pregare. Se lo merita il nome lassù in alto. No, no, Frank è davvero in gamba, devo dire. A volte ha delle idee davvero interessanti e davvero. Inoltre, pure lui cerca ogni giorno di mettersi, ogni volta che può, di apportare qualche modifica. Lui alla fine contatta le persone e chiede: senti, ma metti il tuo gioco? E quelle persone fanno: no, ma è solo una demo. E lui insiste, insiste, poi li rimanda sulle mail. Si occupa di, a volte su alcuni forum, come ti dicevo anche prima, abbiamo avuto non siamo stati proprio accolti positivamente, diciamo così, e avremmo potuto benissimo dire: ma noi teniamo già tanti visitatori al mese, teniamo già tanti giochi, ma chi se ne frega. Invece Frank piglia, ritorna, continua, insiste sempre moderatamente, sempre scrive, aggiorna pian piano i vari post, si occupa. È davvero, davvero una persona molto, davvero un grande. Si mette, si impegna e riesce a ottenere davvero molti risultati. E noi logicamente nel momento in cui vediamo lui che si impegna così tanto, non riusciamo mai a deluderlo. Vabbè, ci vuole una figura carismatica come leader. È determinato proprio, è davvero in gamba. Mo abbiamo Fed, te l'ho detto, che è altrettanto in gamba e si occupa principalmente della programmazione, ed è davvero bravo anche lui e ci sta aiutando davvero molto e sta parlando anche di vari inserimenti che prima non potevamo fare, ora possiamo grazie a lui, anche perché nel team più o meno ci sono io che mi occupo delle mail e della pubblicità. Poi ci stanno Alex, che si occupa ogni tanto di commentare qualche gioco, di fare qualche video, Fed che si occupa della programmazione, Frank che si occupa un po' della programmazione, un po' della pubblicità, un po' delle mail e principalmente dell'amministrazione generale. Ma siamo un meccanismo Tutto ben fare. oliato. Sì, tutto fare, vabbè, lui è il fondatore, quindi È la sua creatura. è la sua Esatto. creatura. No, ma è una creatura che alla fine sentiamo di tutti perché Certo. davvero. Poi a volte volavamo tra le varie proposte future che mi stava dicendo. Era ad esempio una cosa molto bella. Stava cercando di pigliare alcuni giochi, prendere e scaricare alcuni giochi della Frank Expo, metterli su CD e diffonderli gratuitamente negli ospedali dove ci stanno i settori di oncologia infantile, quindi i ragazzini. Stava cercando un po' di vedere, stava informando presso alcuni ospedali per diffondere lì alcuni giochi. Sono Che davvero, bella davvero idea. tante belle. Sì, è davvero interessante. Se no, no, avrebbe senso. Stavo per dire una cosa che non avrebbe senso. Te ne parlo dopo fuori trasmissione. Una cosa che non c'entra niente. Va benissimo. Comunque, sì, comunque è veramente una bella iniziativa quella degli ospedali. Sì, stiamo cercando in tanti modi di far conoscere. Mo, ad esempio, c'era il Romix Sì. e inizialmente si stava pensando di aprire uno stand all'interno del Romix dove diffondere gratuitamente i videogiochi inseriti sulla Frank Expo, però si cercava la Per me, per The collaborazione. Path of the Pumpkin, voglio un monitor 25x25, minimo, eh. 25x25, ma non, neanche un maxi schermo Un 120 proiettore. pollici. No, no, dai, siamo Poi ti chiamiamo sul palco e facciamo a richiesta speciale. No, no, io a Roma non vengo, mi spiace. Non ho i soldi per... Io ho malapena i soldi per prendere la macchina e andare a fare beneficenza. Come faccio ad arrivare a Roma? No, no, comunque si stava i soldi pensando... per arrivare a Forlì. No, questo è caro, vai. Si sta pensando di collaborare in tutti i modi con i vari forum, i vari siti, perché alla fine, se vedi, la Frank Expo è un portale, non è un forum. Sì, cioè, certo. Non è che ti puoi mettere lì a discutere, non è che c'è la sezione parliamo di quello che mi va o la sezione grafica. Alla fine è una vetrina per gli sviluppatori indipendenti. Vetrina mi piace. Vengono, mettono i loro giochi e la gente che passa, se li vede, li scarica se gli piacciono. Noi non possiamo fare altro che mettere a disposizione tutti i nostri mezzi per loro, fare in modo di tenerci sempre aggiornati e aggiornare a sua volta il sito in ogni momento. E logicamente ciò che richiediamo da parte della gente è di credere semplicemente in noi, di portare qualcuno da noi, di diffondere un po' quel sito e di... a quando svilupperà un altro gioco, pigliare e inserirlo, perché quando vediamo che qualcuno a cui abbiamo chiesto di inserire un gioco, successivamente, dopo qualche mese, torna, fa un altro gioco e lo mette, noi davvero diciamo, cavolo, gli è piaciuto il sito, crede in noi, ci ha messo il gioco, diamoci dentro per farlo scaricare. E questo è l'obiettivo principale che abbiamo e che ci poniamo ogni volta. Ok, io credo di aver chiesto tutto quello che potevo chiedere. Te, se hai qualcosa da aggiungere, non so. No, semplicemente di iscriversi al sito, semplicemente di partecipare, semplicemente di scaricare i giochi e commentarli e votarli, perché nel momento in cui uno, anche un creatore, uno che crea giochi, scarica e commenta un gioco, la persona che riceve il commento si sente comunque obbligato di andare a commentare qualcos'altro e quindi si anima sempre di più, quindi i giochi vengono scaricati sempre di più, quindi è la partecipazione quella che noi richiediamo, perché noi veramente ci impegniamo sempre, cerchiamo veramente di dare sempre tutto per ingrandire la Frank Expo e per renderla competitiva a livello europeo. E è anche molto utile. Ci stiamo riuscendo in Europa ad avere buone posizioni, amministratori di altri siti molto importanti ci chiedono supporto e ci chiedono affiliazioni e quindi sentiamo che stiamo riuscendo a ottenere grandi risultati, ma logicamente grazie all'aiuto di sviluppatori e grazie all'aiuto di persone che partecipano all'interno del sito noi non potremo fare altro che migliorare ancora di più. E dicevo, è anche molto utile perché io ad esempio April Skies e Dark Leo li ho conosciuti tramite Frank Expo, cioè io sviluppatore ho conosciuto altri game maker da cui poi ci siamo scambiati informazioni, consigli, siamo diventati amici grazie a Frank Expo, cioè come fosse un social network praticamente. Sì, e questo guarda è eccezionale, tu me lo dici, io mi riempi di gioia quando glielo dirò a Frank e a Fed, impazziranno anche loro, no, è la realtà, diciamo... cioè viviamo di queste piccole soddisfazioni, perché nessuno ci paga. È Free Skies che lo sento tutti i giorni, adesso l'ho conosciuto grazie a Colin quando l'ha postato su Frank Expo, e Dark Leo quando postò in blocco tutti i suoi giochi, quello in particolare me lo ricordo, arrivano tutti insieme, quindi... Sì, sì, lui ha fatto Sprint, che è davvero molto bello come gioco. Sì, sì. E davvero è quello a cui noi puntiamo, creare collaborazione tra i vari sviluppatori in modo che possano sempre di più migliorarsi, anche perché chiunque mette il gioco sul sito è una persona che fa il gioco gratuitamente e quindi quando fai un gioco gratuitamente significa che c'è davvero passione dietro quel gioco, significa che non l'hai fatto è perché proprio ti piaceva farlo e ti piaceva diffonderlo e condividerlo con gli altri, e noi vogliamo cercare di aiutare, metterci a disposizione, dare più evidenza possibile a queste persone e speriamo di riuscirci sempre più. Logicamente, per riuscirci più in fretta, oltre al nostro impegno, richiediamo anche l'impegno dei vari iscritti e dei vari persone che visitano il sito. Quindi noi, grazie ai volontari, riusciamo a ottenere grandi risultati e spero che la cosa si intensificherà sempre di più. Una cosa, quando votate un gioco, te parlo in generale, finitelo e non votatelo dagli screenshot, perché se uno mi vota dagli screenshot mi fa infuriare, capito? Cioè, non permettetevi di commentare un gioco, di dare un giudizio su un gioco che non avete finito. Mm? Va bene. Va bene, va bene. Perché se no vengo a casa vostra. In qualche modo arrivo. E chiedi in bicicletta. Qual è il tuo giudizio? No, no, quella cosa non la posso sopportare, veramente. No, è una cosa che non ha senso. Ma vabbè, ma no, no, ma scherziamo. Ognuno è libero di fare quello che vuole e io sono libero di picchiare chi vuoi. No, no, sono un pacifista. Ma quello non è vero. Sono un pacifista, non picchio nessuno. Niente, quindi ricordiamo che registrarsi su Frank Expo è facilissimo. Adesso io non posso registrarmi perché sono già registrato, dovrei deloggarmi. Comunque, dato ormai Mario saprà memoria, cioè serve solo un'email e password e cose. Sì, basta un'email e poi username e password. Basta, una persona si può iscrivere come sviluppatore o come giocatore e a sua volta provare e commentare i giochi degli altri. Ah sì? Tipo, sì, sì, sì. C'era la divisione? Io non me la ricordo. Sì, c'era una divisione, ora stiamo cercando di diversificare ancora di più. Vabbè, perché io mi sono iscritto un anno e mezzo fa, non me la ricordavo più. Quindi il giocatore che differenze ha? Non ha il pannello che fa vedere i suoi dati come lo sviluppatore? Sì, diciamo, mentre allora, tu, diciamo, il tuo pannello di controllo della tua game page ce l'hai solo tu che hai inserito il gioco, questo l'avrai notato, no? Sì, certo. Cioè, tu quello degli altri giochi non puoi sapere quanti visite ha fatto un altro gioco, se sono aumentati e diminuiti. Non puoi mettere il loro cartellino, dai, il loro... Sì, sì, sì, le loro etichette in firma, diciamo. Esatto, ce l'hai solo per i tuoi, quello. Sì, sì, sì, è solo per te. E lo stesso pannello di controllo che ti dice le visite che ci sono state in questa settimana, in quelle passate, e il rapporto tra le visite di oggi e quelle di ieri. Questo, sì, logicamente, sì, ce l'hai solo tu che hai inserito il gioco. Inoltre, è una cosa che c'è solo tu, e anche nel momento in cui entri nell'home del sito, a destra il download dei tuoi giochi, mm-hmm, e il link rapido ai tuoi giochi per andarli a visitare subito. I player invece hanno una visuale leggermente diversa, ovvero non hanno logicamente il pannello controllo perché non hanno i loro videogiochi, e vedono le statistiche di download totali del sito, download giornalieri del sito, gli compare un'immagine se vogliono scaricare e votare un gioco, hanno un leggermente diverso. Ah sì, ho presente, a volte entro non loggato, ho presente che ci sono i giochi suggeriti, vota questo, sì, gioco, sì. Esatto, sì, sì. Qualcosa di simile. Ok. Niente, diciamo che possiamo finire qui allora. Perfetto, guarda Pietro, ti ringrazio a nome di tutta quanta la Frank Expo e dello staff. Io volevo ringraziare per averci dato questo spazio, guarda, mi fa piacere, anche perché noi adoriamo anche queste piccole iniziative indipendenti, diciamo, che tendono a far conoscere giochi amatoriali e freeware. Ho visto che intervisti da Cleo, parli di April Skies, e noi ci fa davvero piacere che non siamo gli unici a credere negli indie games, ma c'è tutta una comunità dietro. Lo scopo è questo. Grazie a nome di tutta la Frank Expo e dello staff. Lo scopo è questo, perché in 5 anni che faccio sta cosa nessuno ti aiuta. Io ti posso assicurare, quando tu fai qualcosa, un gioco freeware, che sia di qualità o non sia di qualità, non trovi nessuno che ti voglia aiutare. Quindi a parte Frank Expo, che fa benissimo il suo lavoro, in più volevo aggiungere questo spazio io per aiutare i game maker, visto che quando toccava a me nessuno mi ha aiutato, io voglio aiutare gli altri. E chiamare uno di voi di Frank Expo, che non cioè siete game maker, però non venite per parlare dei vostri giochi, è perché comunque Frank Expo è come parlare di 320 giochi assieme, dai. Esattamente, sì. E niente, noi invece io ti ringrazio per averci dato il tuo tempo. Grazie a te. Ringrazio tutto lo staff di Frank Expo per il lavoro che fa, i soldi, la fatica, il tempo che ci mette comunque nel portare avanti questa piattaforma, che è solo, cioè non è a scopo di lucro, è solo perché loro ci credono veramente. e li ringrazio anche come game maker perché mi hanno aiutato molto a livello di visibilità. Ci fa piacere, siamo riusciti nel nostro obiettivo. Quindi niente, la puntata la possiamo chiudere qui. L'indirizzo di Frank Expo è www.frank, che Frank è scritto Frank, Sì, expo.net. particolare. Sì. E comunque su Google è facilissima da trovare. La trovate anche su Twitter, Facebook e YouTube. YouTube però il Sì, nome è... inoltre con il miglioramento della nuova versione della Frank Expo su internet, su Google, basta scrivere semplicemente Free Indie Games e in seconda pagina, prima pagina, sia italiana sia mondiale, compare il nostro sito. Fa vedere che confermo. Sì, confermo. Compare anche quello schifo di Ideal Soft Blog, ma va bene. Dovevo parlarne male, ma almeno oggi di loro, di lui più che altro. E niente, ci salutiamo qui. Marius, saluta il pubblico. Ciao a tutti e ringrazio ancora da parte mia, da parte della Frank Expo e a te che hai avuto modo di darci questo piccolo spazio. Claudio non c'è perché non so se ve ne siete accorti, ma è sparito praticamente subito perché Scomparso. mio nonno l'ha rapito. Vabbè. E quindi Rixka quarto. Perché quarto? Non ho ancora capito, però. Scusa, 4.0, saluta. Ciao a tutti. Io non ho ancora capito neanche su 4.0, Ah però. no, ma sì che l'hai capito. Sei programmato in Unix e Vario Punk, Vito Turri vi saluta alla prossima puntata con non si sa chi, non lo so neanch'io. Buia!